Vangelo di Marco, capitolo tredicesimo. E com'egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» E Gesù gli disse: «Vedi tu questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata». Poi, sedendo egli sul monte degli Ulivi, dirimpetto al tempio, Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: «Dici quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose saranno per compiersi?» E Gesù prese a dir loro: «Guardate che nessuno vi seduca. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: "Son io", e ne sedurranno molti. Or quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Questo non sarà che un principio di dolori. Or badate a voi stessi. Vi daranno in mano dei tribunali, e sarete battuti nelle sinagoghe, e sarete fatti comparire davanti ai governatori e re, per cagion mia, affinché ci osserva loro di testimonianza. E prima convien che fra tutte le genti sia predicato l'Evangelo. E quando vi meneranno per mettervi nelle loro mani, non state innanzi in sollecitudine di ciò che avrete a dire, ma dite quel che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. E il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figliuolo, e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma chi avrà sostenuto sino alla fine sarà salvato. Quando poi avrete veduta l'abominazione della desolazione posta laddove non si conviene, chi legga pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggiranno ai monti, e chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa sua per toglierne cosa alcuna, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che ciò non avvenga d'inverno, poiché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non v'è stata uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe, ma a cagione dei suoi propri eletti, egli ha abbreviato quei giorni. E allora se alcuno vi dice: "Il Cristo eccolo qui, eccolo là", non lo credete? Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e saranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi state attenti, io v'ho predetta ogni cosa. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. E allora si vedrà il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole con gran potenza e gloria, ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. Or imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è al giorno e da quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli nel cielo, né il figliuolo, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel tempo. Egli è come se un uomo andando in viaggio lasciasse la sua casa e ne desse podestà ai suoi servitori, a ciascuno il compito suo, al portinaio comandasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte, o a cantare del gallo o la mattina, che talora, venendo egli all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ora, quel che vi dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate.